Welcome, Federico. Hostile takeover. Ciao e benvenuti a tutti a un'altra puntata. Buongiorno, diciamo. Buonasera. Ciao. Benvenuti a tutti, un'altra puntata di Hostile Takeover. Vi siamo mancati? Vi siamo mancati? Avete visto? Un'altra puntata perché abbiamo deciso di... No, hai sbagliato di nuovo, avete visto. Non stanno vedendo, stanno ascoltando. Avete visto perché questa sarà caricata su YouTube, cioè abbiamo anche 1000 webcam che ci stanno già guardando. C'è un po' NBN qua intorno a noi, no? È tutto intorno a noi. Sì. Beh, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte e tutte le varie sollecitazioni temporali. Buon zenith, buon se zenith. Ci state ascoltando sulla spiaggia con la vostra fidanzata e guardate il fidanzato, o fidanzato che guardate l'alba o anche il tramonto. Animale di Va compagnia. Bene. Se qui questo è Luca Ricci e Noa Vassalli, che siamo stati chiamati da Dennis Raffo, ci ha chiamati i Bonolis e De Laurenti del podcast Netrunner. Noi siamo molto felici di ciò e per questo, caro il nostro Dennis, che adesso noi ti chiameremo il nostro Maurizio Costanzo. Marzullo, perché ha chiesto a Federico si faccia una domanda e si dia una risposta. Ecco. Quindi direi che Marzullo è appropriato. No, vabbè, a parte gli scherzi. Grazie ancora per i complimenti, ottima puntata. Ottimo gusto, visto che ci faceva dei complimenti. Giusto, bravo, bravissimo. Bravo, bravo. Va bene. abbiamo finito, possiamo tornare a casa adesso? Siamo già a casa. Ah, ok. Allora, diciamo subito un paio di cosette. Questa puntata arriva subito dopo le vacanze. Le vacanze estive, sì. Le vacanze estive. Avete fatto i vostri compiti di aritmetica? Avete fatto il vostro tema di italiano su un saggio breve? Avete letto il libro? Il libro! Quell'odioso libro, maledizione! Avete compilato il sussidiario? Avete messo le plastichine nuove ai quadernini? Vabbè. Sussidiario. Sussidiario penso che sia una parola di uso ormai desueto, no? Ma no, in realtà è per dire solamente che quest'anno netrannico è finito e siamo un po' tutti caldi per il prossimo anno di tornei. Campionato 2015, stiamo arrivando. Sì, che poi è 2014-2015, sì, come il calcio. Vabbè, come il calcio, certo. Ricordiamo a tutti quanti che oggi... Di data in cui deve uscire, adesso questo pezzo sarà redatto e premetteremo una data computerizzata. Beh, è stato ufficializzato oggi, ufficialmente e ufficiosamente dal nostro guru Paddo, l'inizio dei tornei del 2014-2015 con i primi di ottobre, esatto. Noi annunciamo qui su questa nostra emittente, che non è nostra ma è un'emittente. È un'emittente, noi abbiamo assolutamente rubato le frequenze. Ciao Federico. che faremo il primo torneo della stagione. E vai, un nuovo torneo, tappa numero non 5. Numero 1, sarà nuova. Numero 1 del 2015 della VGN Corporation. Sarà i primi di ottobre, la prima settimana di ottobre. Esatto. Non sappiamo aprire un calendario, lo apriamo adesso. 20 giorni a novembre. Con apri il giorno settembre. Il 5 ottobre. 5 ottobre. È una domenica, così chi whina. No, sei libero 5 ottobre. Aspetta che guardo sul cellulare. Perché sbaglio, c'è una figura di merda, eh. L'ho già segnato. Oh, cazzo, hai detto merda. Aspetta, sto minchia. Sì, guardalo. No, utilizzate tutti una bella applicazione iPad. Paid Campaign. Guarda. Va, settembre, ottobre, bene. 5, torneo Netrunner. Già segnato sulla rubrica, segnatelo anche sulla rubrichina, sul calendario, sul vostro muro di casa. Sul vostro pad. No, sul pad no, per favore, tenetecelo buono. Allora, quindi... Il torneo, questo lo svolgeremo, ma noi abbiamo già un torneo di cui dobbiamo parlare, che è quello che abbiamo parlato nella puntata precedente, ovvero l'ultima tappa della VGN Corporation. L'ultima tappa della VGN Corporation è andata molto bene, secondo me, perché in estremo luglio, tempi in cui una gente va in vacanza. Un agente, sì. Un agente. L'agente Smith va in vacanza, saluta Neo e se ne va. Sì, ma dove è andato quest'anno l'agente Neo in vacanza? L'agente Smith. Neo è l'altro Smith. Non hai capito un cazzo te di madre. Io non ho mai capito, cioè, non allora, lo so, vedevo delle cose la cosa brutta, giravo. Adesso vi dico, ragazzi, Luca Ricci è l'unico che ha visto solo il 3 di Matrix. Non è vero. L'1 e il 2 non li ha visti. Ha visto solo il 3 e gli è piaciuto. E sta falsità. Aspettando il 4. Ha la maglietta con su scritto: a me piace Matrix 4 e lo vorrei in tele. Comunque, il torneo VG sa di defenestro da questa applicazione. Dicevo, il torneo VGN a Vigevano. In realtà non a Vigevano, ma ad Abbiategrasso, che è alle porte di Milano. Perché noi ci stiamo espandendo come territorio. Pian sì. piano ingloberemo un po' tutta Cassinetta. Merda. E... Pavia, merda. Pavia. Mortara, merda. Ascoltatore di queste città appena nominate, merda. Non è vero. No! No! Non è vero. Siete tutti molto simpatici, e accoglienti e calorosi. Venite tutti ai nostri tornei. Bene. Dicevamo, parliamo brevemente del torneo. Io parlo da, diciamo, giocatore, Luca Ricci, da organizzatore. Sì, perché è stato Luca Ricci uno degli organizzatori che non ha voluto partecipare al torneo perché ma appunto sono anche l'unico organizzatore della VGN Corp. Ma sì, io faccio quello che fa gli occhi dolci alle tipe. Bene. No, beh, a parte gli scherzi, non ha voluto partecipare perché eravamo in dispari con la sua presenza. Seguendo il regolamento ufficiale italiano, devo dire anche. E abbiamo raggiunto la quota di 12 partecipanti, abbastanza buona comunque, nel senso che eravamo un po' di persone avevamo diversi outsider. Sì, è vero, un ragazzo da Varese molto simpatico, un ragazzo di Modena anche lui molto simpatico e noi che eravamo molto simpatici. C'erano anche delle nuove leve che erano venute solamente ad osservare e guardare, quindi presumiamo che il prossimo torneo, non vorrei allargarmi troppo, ma saremo bene o male 15. Mamma mia, ragazzi, che numeri! No, ti stiamo sempre di più allargando, sono sempre più giocatori, c'è sempre più scena anche competitiva, il gioco piace, il gioco è forte, elettrizza. E spero sempre di fare di più. Comunque, quindi ritorniamo un attimo sul filo. Quarta tappa VGN Corporation, vince Andrea Maria Genchi. Non so se questo podcast uscirà prima o dopo un video che abbiamo montato con l'ultima partita del torneo. Sì, quella in cui ha visto brillare il sottoscritto contro il vincitore. L'unica del partita torneo. In cui ha brillato oltretutto. No, se era al primo tavolo vuol dire che effettivamente ha fatto il risultato. Perché il vincitore è Andrea Maria Genchi, secondo Federico Rossini e terzo Noah Vassalli, qui presenti. Abbiamo detto i nomi in ordine di importanza. No, in ordine di classifica finale. Esatto. Scemotto, che non sei altro. No, è stato un torneo molto, molto piacevole. Ogni persona ha ricevuto anche un cadeau personale per la partecipazione. Assolutamente, che è anche andato adesso, è diventato anche famoso internazionalmente. Sì, sono girate delle foto, ovvero i partecipanti hanno ricevuto un diesel. Sì. E voi direte, grazie al cazzo, siete andati al distributore, avete preso le tanichette. No, non quel diesel. Ma tanto chi ci ascolta già sa di cosa stiamo parlando, andiamo direttamente avanti. Se invece non sapete di cosa stiamo parlando, chiedete al vostro amichetto o cercateci su internet. Cercate su Google. Su Google, mettete www.diesel tarocco fatta Vigevano, invio, doppio click, come i vecchi. E vedete, così vi viene l'acquolina. E la prossima volta parteciperete più volentieri ad un torneo. Non stiamo tirando solo l'acqua al nostro mulino, tiriamo l'acqua anche al mulino delle altre realtà che stanno nascendo. Ho letto oggi che c'è Genova che si sta avvicinando ai tornei, c'è Alessandria che vorrebbe partire. Comunque sono delle realtà molto, molto dislocate nel territorio italiano, che permettono a molti giocatori di avvicinarsi. Sono capoluoghi, sono queste cose qua. Che problemi hai? Ma io faccio un discorso serio, Dio Bonino. Dio Bonino. Non ce la faccio, passami della birra, per favore. Tieni la tua birra. Bene, allora, a fare un torneo ci vuole ben poco, ci vuole soltanto la volontà di farlo, qualche premio, giusto perché, devi parlare dal microfono, non sì, devi versarti non la birra. Dal microfono, ma verso il microfono. Sì. Da sa. No, smettila di provare, non serve più. Quindi, guarda qua, c'è un picco. Sei tu col tuo sa. Quindi, organizzate, fate più torne che potete, fate network, cioè cercate, spingete semplicemente a provare questo gioco. Ricordatevi, potete giocare tranquillamente un torneo con un core set, meglio due, però con un core set potete farlo benissimo. Basta semplicemente che coinvolgete le persone, coinvolgiate le persone. Comunque, Luca Ricci, abbiamo finito qua. Allora, sì, direi che abbiamo tipo 10 argomenti in scaletta. Avevamo detto che mettevamo un minuto e mezzo ad argomento. Sì, avevamo detto anche che mettiamo un cronometro. E siamo a 10 minuti, Dio Bonino. Dio, cioè, Bonino. Abbiamo già sforato di 8 minuti e mezzo. La gente vuole più. La più, gente più è già andata via. È già andata via. Io penso a questa gente, poverini, che magari vogliono. Sono lì che lavorano e devono cercare di capire dentro i nostri sproloqui che cazzo stiamo dicendo. Esatto. Cavolo, non cazzo, non si può dire cazzo. Ricordati. Allora, piccola pausa, sì. Ritorniamo fra poco. La reclamo. Eccoci qua di nuovo con voi. C'è una nuova rubrica del giorno ed è la carta del giorno. Cioè, siamo stati un quarto d'ora a vedere le sigle e la carta del giorno non ce l'abbiamo. Non l'abbiamo ancora fatta. Vabbè, immaginatevi la sigla. Tanto vi piace così, no? Mi hanno detto così nei commenti, vi piacevano queste sigle. No, ma comunque, a parte gli scherzi, stasera, oggi, domani, quando ascolterete questo podcast. Buonanotte, buongiorno. Sentirete un sacco di siglette carine. Luca Ricci ha fatto le siglette per tutto quanto il podcast. Onore a questo qui. Attualmente. E, cioè, vabbè, le mie sono delle cose oscene. Quelle che si è fatto per lui, cioè, sono delle figate assurde. No, non è vero, sono tutte bellissime. Voi le ascoltate adesso nel programma. Carta del giorno è la prima. Me l'apri intanto. Ah, perché non conosci assolutamente qual è quella. No, me la ricordo, però volevo raccontarla un po' meglio. Allora, la carta del giorno è... No, questa qui è la tua carta del giorno. La mia carta del giorno è Queen's Gambit. Allora, che in italiano è la gamba della regina. Lo sgambetto della regina. Oh, non abbiamo internet. Siamo un po' fottuti. Non si dice fottuti, si dice porca troia, siamo veramente inculati. Non puoi fare un podcast su un gioco di cyberpunk e non avere internet. Ah, era tutto uno screzio, un facezio, una sciarada. Doppio clic su Queen's Gambit. Allora, Queen's Gambit prima di tutto una carta runner, vogliamo dire. Lo sappiamo, allora, almeno questo. È la mia carta, adesso me la comune, me la faccio io. Spazio. Allora, innanzitutto, grazie a Matt Zellinger che ha fatto questo bellissimo disegno in cui si vede. Lo sai che questo microfono non è settato su ipercardioide? Cosa vuol dire ipercardioide? Vabbè, allora, Queen's Gambit, costo 0, è un evento double, ovvero quando giocate questa carta dovete dire click click perché costa 2 click. Dovete anche spenderli. Sì, dovete anche spenderli. Piazzate fino a 3 advancement token. Piazzate fino a 3 pippotti sopra una carta non rezzata in un server remoto. Questo è abbastanza importante. Guadagnate 2 crediti per ogni token che avete spippottato sopra la carta. Voi non potrete accedere a quella carta per tutto il turno. Ora, come funziona? Fondamentalmente ci sono 1000 modi per guardare le carte non rezzate dell'oppo. Per esempio, siete Silhouette, avete fatto una run sulla Kaku e avete girato questa carta che è una capricciosa. Sì. Una capricciosa al tavolo 7. Voi sapete che quella capricciosa lì non deve essere. Non ha nessun vantaggio ad essere avanzata. E quindi ci pippottate sopra i vostri token e guadagnate del chilo semplice. Fondamentalmente vi dà a 2 click 6 crediti duri e puri. Che è un buon prendere, fondamentalmente. Soprattutto per gli anarch che soffrono di. Un'economia sul ma anche un po' di corpo soffrono. Sì, non devi fare il simpatico per forza. No, vabbè, tu sei Bonolis, tu sei quello saccente che fa Dennis di odio. Ok, te lo dico qua, tu hai gli occhiali, io ho la voce bella, quindi sì. Io faccio la Laurenti. Allora, Queen's Gambit dove la si usa? La si usa appunto una volta che si sa che carte sono rezzate, oppure con un pochino effettivamente di sfregio del pericolo. Ma sì, perché fondamentalmente siete a 6 punti agenda. Sapete che dall'altra parte c'è un'agenda. Vi serve solamente il chilo. Fate un click di soldino. due clic su questa, avete 7 crediti e vi lanciate. Potete rannare perché naturalmente non puoi accederci. Sì, ma rani da un'altra parte. Da un'altra parte, giusto. Andate su HQ, ricordatevi. Ricordatevi questa cosa, sempre sulle carte in un server remoto, sempre sulle carte non rezzate, ok? Non potete farlo sugli ice. Sempre su una carta che sia un asset, un upgrade, un'agenda, voi non lo sapete, mettete questi 3 advanced token, anche se la carta non può essere avanzata. Insomma, una buona carta, una buona economia, secondo me molto utilizzata. Dove sì, serve, peccato, allora, peccato per quei 3 punti di influenza che non, non me la fanno spostare. Certo è che... cioè, non è una carta economica che sposta tanto il... ma no, le altre fazioni hanno altre carte molto più remunerative. Abbiamo per gli Shepard abbiamo Magnus Opus, abbiamo il Pawn Shop, abbiamo un sacco di cose che ci danno soldi. Per Criminal, i criminali stanno sempre con le mani nel sacco, ci hanno un miliardo di robe, figurati se si vanno a prendere una carta del genere. Certo che agli anarchici una carta così fa piacere. Gli anarchici, se notate, sono quelli che appunto mirano un pochino al gioco d'azzardo, cioè loro si buttano e sperano di far cappotto, cioè spigliano chiodi in testa con brain damage, si fanno di tutto di più per cercare di raggiungere il miele. Assolutamente, è una buonissima carta, noi vi consigliamo, se montate un mazzo Anarch, di provarla e utilizzarla. E poi ci farete sapere. Se vi è piaciuta, ecco. Certi vecchi antichi la mettevano anche nello Shepard, ma no, nello Shepard non ci va! Ok, continuiamo con la prossima rubrica che è Wildside, la balera degli Anarch. Ci piace tantissimo. Tu mi dici che questa, cioè, sarebbe una cosa brutta, cioè poco... No, questa è una figata. La balera degli Anarch, Wildside che viene scorciata e quindi va in fiamme, no, è bellissimo. Ok, naturalmente se vi siete sintonizzati, questa è la vostra prima puntata di Hostile Takeover. Wildside, la balera degli Anarch, vuole esplorare le canzoni che più si avvicinano al mondo netrunner, naturalmente sempre ispirata a qualche carta. In questa puntata ci facciamo? Vediamo un po'. Ronin. Ah, Ronin, carta corp, che dice che praticamente voi l'avanzate, è una carta gente che voi l'avanzate e poi tagliate la faccia tagliate la faccia con 4 bei net damage runner. Al runner. E naturalmente noi cosa potevamo pensare con... beh, noi siamo dei giovani ex punk californiani nerd. Naturalmente noi usiamo soltanto delle cose di assonanza, niente di più. Quindi quando caliamo Ronin... e cosa noi pensiamo? Noi siamo i Limp Bizkit. Con quale canzone, no? Rolling, baby! Begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot shit. That rock ancora facevano delle canzoni decenti. Vabbè, hanno smesso. Comunque. Non hanno smesso, lo sai che stanno ancora suonando, c'è ancora da. Fanno cagare adesso. Vabbè, ringraziamo Fred Dust che si è venuto a fare sta vasca ed è venuto qui mentre noi registravamo il podcast per cantarla in diretta. Sì. E andiamo avanti con la nostra. Però vogliamo un attimo riguardare quando è uscito Rolling. Ci piacciono un po' queste cose qua, no? Ma sì, sarà bando. 2000, signori. 2000. Era un po' 14 anni fa. Sì. Ma 14 anni fa cosa facevi? Io? Sì. 14 anni fa? Tu saltavi fossi per la lunga. Venivo adescato. Venivi adescato? Che passato turbolento e torbido. Oh. Tanti aggettivi con la T. Oh, zio, vieni qua, c'ho degli spade a spigheri. No. No. Sono foil, vieni. Già c'erano foil. No, 14 anni fa? Non credo. Assolutamente, beh, erano gli anni 2000 appunto questa canzone. Ma mi adescavano, io però ti adescavano, sì. Rolling era uscito nell'album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, sempre gli anni 2000, e terzo album dei Limp Bizkit, fantastico album secondo me. Erano i capostipiti del New Metal, poi sono arrivati gli Slipknot, per fortuna. Che hanno e anche il System of a Down. In realtà non era New Metal, era più crossover, System of a Down era Alternative Metal. Scusami, carici. Se uso tutte queste categorie. Oddio, Bonino. Ma allora, tu, Fred Dust e un giovane Spatuzza. Esatto. Conoscete queste cavolo di definizioni in un metal Arkin Budge crossover? Ma veniamo oggi qui con le nostre divagazioni. Ecco, e continuiamo con la prossima rubrica che non potreste mai sapere che cos'è. Tu la sai? Certo, è che fine ha fatto Simon San Diego. Dimmi. Che fine ha fatto Simon San Diego? Arriva a Nashville da Tokyo, via Roma e Milano, Parigi, Argentina e poi tornerà. Bene, questa è proprio la più grezza, penso di averla fatta usando dello scotch e della colla vinilica in abbondanti quantità. Mentre ero ubriaco di succo di frutta. Allora, che è la seconda. Ok, allora questa rubrica naturalmente è una nostra personalissima e originalissima rubrica. Il fatto che voi dovete indovinare quali carte noi usiamo slengate, sì, cioè noi di solito non, in realtà noi, io sto coprendo una persona qua in questo caso, caro Noah non si ricorda i nomi delle carte, allora lui usa tutti i domignoli per, sì, non so, non piangere perché ragazzi, è una storia tristissima. Sono una persona tanto intelligente, ma se devo ricordarmi tutte le cose non ne vengo più a capo. Già, esatto. Quindi uso questo metodo infallibile finlandese che tu ti ricordi una roba e poi la chiami Horst Ragnar. No, cioè del tipo vedi un gatto, no, islandese, cioè tu pensi a un gatto e sai che hai 44 euro sul conto corrente. Comunque, benissimo. Allora, chi ha vinto la puntata precedente? Allora, quali erano le carte? Erano tre carte. Abbiamo due semi vincitori, leggendo dalla tua scaletta. Uno, la scaletta che è una? La scaletta, una piccola cala. Dalla tua scaletta, visto che sei molto dislessico, hai scritto che ha vinto il Margo Genovesi. Margo Genovesi, che ne ha sparate praticamente tutte, aveva il raccoglitore, sì, davanti, vabbè, e le ha scritte tutte. Marco, però non si può sempre fare 27 commenti, poi spammi. Ha beccato la zozza, che è la zozza, com'è che si chiama in inglese la zozza? Che è femme fatale, con quel suo sguardo detto tutto in inglese, non in francese. E Markers e Markers The Maker's Eye, quello che ti vorrà guardare due carte in più nel nostro occhietto. Invece un giovane Marco Carbone, un grande bacione a Marco Carbone, sì, da Trapani, che era quello che voleva il tuo... non so. Vabbè. Ma un bacio è da Trapani o a Trapani? A tutta Trapani, no, tutta che Trapani. Ci ascolta, si trovano in piazza della Signoria di Trapani. E ma col maxi schermo? Certo. Perché è su YouTube questa puntata. Non so se esiste piazza della Signoria. Se c'è, vabbè, guarda. Marco Carbone che ha indovinato la friggitrice, che è il grimorio. Naturalmente, voi andatela a guardare, praticamente la vedete e c'è ci anche mancano solo i McNuggets dentro. Sì, i McNuggets perché si infila dentro, fatta. Allora, quindi abbiamo deciso che è forse un po' troppo difficile con tre carte. Allora, no, scegliamo due. Proviamo questa puntata a fare due carte. No, che poi non ci avevamo più sbatto di scegliere. Esatto. Abbiamo una lista molto corta, effettivamente. No, se dimentica e basta le carte. Ormai non le nomino. Vabbè, più. Le due nuove carte sono la TVNMDB. TVNMDB. Che sarà mai? Tu hai scritto TVNMDB. Ma è giusto, TVNMDB. TVNMDB. No, TVNMDB. Ma la chiamo io, cazzo, so proprio come si chiama. E l'altra è l'idraulico. L'idraulico, che non è quello che chiamate, o forse sì. Quando tu ripetiamo, TVNMDB e l'idraulico. Bene, naturalmente potete mandare le vostre risposte nella sezione dei commenti, via email, via piccione viaggiatore. Sul cellulare del Luca Ricci. No, sul mio cellulare, no, vi prego. 349. No, per favore. Voi segnatevele, poi. Allora, il prefisso è 349. La prossima volta vi dirò 555. Ma no! Ma è praticamente un po' come i numeri di Lost questa cosa. 37. No, allora! Non è assolutamente quello, ragazzi. È in realtà vi sta direzionando verso lui perché è un adescatore dopo quei terribili anni fa. Oh, spada spiga ce ne hai. Ce ne hai. È proprio buono. Quindi, insomma, rispondete, riceverete l'autopremio che i cari Marco Genovese e Marco Carbone non hanno ricevuto perché non hanno indovinato tutto. Hanno indovinato a pezzi. Riceveranno metà premio. Cioè, ragazzi, ma noi veramente abbiamo il chilo che ci esce dalla tasca. Siamo veramente, cioè, buttiamo fuori premi. Abbiamo... Sì, siamo sponsorizzati dalla Asso 3, dicevano, carrozzeria. È quella di tuo padre? No, assolutamente no. E dal pane alle spighe, che è il fornaio sotto casa. Che desca. Che desca con le foil, con le ciabatte foil. Allora, passiamo alla prossima rubrica, che è la carta del giorno. Tu la devi fare tu questa sigla, lo sai? Ma mi la fai tu. Vabbè, poi ci penso. Allora, la mia carta del giorno invece in questo caso è Mushinushi, uscita con Honor and Profit. Questa carta Corp è un'operazione double, vuol dire che dovete spendere due click per giocarla, costo zero per giocarla. L'effetto è questo: installi un asset, un'agenda o un upgrade dalla tua mano, cioè l'HQ, in un nuovo server remoto. Ricordatevi, nuovo. Mettete 3 Advanced Token su questa carta. Non potete né scorare né rezzare questa carta finché il vostro prossimo turno inizia. Che significa? È un po' la gemella della Queen's praticamente Gambit. Sì, è stato fatto abbastanza senza, per coincidenza, ecco, questa scelta nostra, sì, di scelta di carattere, sì, perché sì. Noi facciamo al mattino alle 5 un momento in cui decidiamo gli argomenti, ci troviamo in redazione, la mia segretaria di solito viene al posto mio perché io vado a correre sulla spiaggia, e sono parlati di lei e la Luca Ricci, hanno deciso queste carte, poi sono guardate e hanno detto: chi è il tuo pusher, scusami? Quello che vende spada spiga. Ok, quindi allora questa carta è molto interessante sia in un mazzo Jinteki che butta roba lì, ma è possibile utilizzarla anche in altre parti. Che succede? Che voi però dovete sempre installarlo in un server remoto nuovo, quindi non protetto da ICE. Naturalmente lì state veramente giocando a un mind game, perché potrebbe essere veramente il Cerebral Override che ti stura dura tutta, mette chiodi nel cervello, oppure potrebbe essere una bella agendona da 3, da 4, da 5 e voi scordate al turno prossimo con tranquillità. Lì in base alla vostra scelta, certo che in un mazzo Jinteki anche quello, per esempio, come un Replicating Perfection, non necessariamente uno delle identità corset base, può essere utilizzata e poi protetta con uno o due ICE, niente di più, niente di meno. È molto versatile perché appunto è una carta Jinteki, ha due di influenza, ma da Jinteki è perfetta, perché tu te la puoi giocare con i Trick of Light, perché tu puoi giocarci dietro le trappole, perché tu puoi proteggertela dopo con altre cose. È praticamente al costo di due click voi avete piazzato una carta e messo 3 Advanced Token sopra, con un risparmio praticamente di 3 crediti. Secondo me è un'ottima carta, veramente molto, molto giocosa, ecco, molto bella a giocarci e comunque anche interessante a giocarci contro. Una carta che appunto l'unica cosa, anche se solo 2 punti di influenza, metterla in un mazzo che cerca di proteggere comunque le sue carte è praticamente dura, perché quella carta che voi mettete lì con il Mushinushi va fuori, non è, proteggibile. Progettibile, proteggitabile. Oh, comunque vedo che ha fatto un mazzo che la giocava, ha fatto il primo posto ad Axul, il Pink Elephant di Cambridge. Cambridge Style. E al regionale di Cambridge. Cioè, quindi Cambridge. No, era il nazionale. Nazionale. Primo posto, primo posto nazionale tedesco. Che roba, eh? Okay. Che pazzi questi tedeschi. Continuiamo con la prossima rubrica che io non riesco a leggere. Ah, sì, è sempre la balera, quindi falla ripartire perché mi piace un botto. Tra la gente allegra e spensierata, la balera si è incendiata. E si incendia pure l'amore mio, che in mezzo a tanta gente mi stringe forte al cuore. Possiamo fare tipo 8 puntate, sì, del podcast solo per sentirla 16 volte. Sì, sì, assolutamente. Io la sì. voglio come suoneria del cellulare quando presto, mi arriva il messaggio. La potete scaricare dal nostro sito styletakeover.netrunner.it/. Federico Latini. Che è il coso del commercio, giusto? Ah, agente di commercio. No, il boy of commerce. No, il commercial dude, eccolo. No, il coso di commercio, giustamente. Commercial dude. Commercial dude, sì. L'hai detto te questa, pensa. Non te lo ricordi più, eh? No. Cioè, te cancelli tutte le cazzate. Sì, no, sono. Perché tra l'altro, giustamente, Federico Latini nell'ultima puntata insieme a Dennis parlava. Stiamo facendo Style Takeover dalla rubrica Wildside. Sì, vai, un secondo, poi rimettiamo la sigla. No, No, dai, allora dico anche del Cilli. Però, ma... due cose. Parlava appunto del fatto che loro non preparano la più di tanto la puntata. Ecco, io e Luca Ricci abbiamo preparato la puntata facendo gli hamburger stasera. Sì, mamma mia, che ragazzi, che buoni sti hamburger. Ma potremmo parlarne dopo la nostra rubrica musicale? Vai, fai partire. Allora, per questa invece dal lato runner, a questo giro ci siamo ispirati naturalmente a una carta usatissima uscita in Creation and Control, che naturalmente stai ruttando gli hamburger. Sì, sto norzo nella birra anche. All the small. Sì, adesso ti do la birra. Che è naturalmente. Stavo dicendo il titolo della canzone. Che bestia che sono. È Same All Thing. Voi la utilizzate tantissimo perché con due click avete riutilizzato un evento dal vostro cesso. Scusate, dal vostro hip. Fighissima. Lo utilizzate con i sifoni, lo utilizzate con l'index, lo utilizzate un po' anche per pulire i vetri di casa, ecco. No, sifoni il culo a nastro dal cesso. Si può dire culo in podcast? Ma sì, chi se ne forte alla fine della fiera. Cioè, quando ti giocano all the small thing lì, com'è che... Ma no! Vabbè, oramai... forse l'avete capito, sempre un po' perché ci piacciono un po' gli anni 2000, un po' il punk rock, queste cose qua ci hanno ancora fatto ispirare. E in questo caso stiamo parlando dei Blink 182 con All the Same Old Things. Io mi volevo vestire come lui a carnevale. Per fortuna che non l'hai fatto, spero che tu non l'abbia fatto. Con le mutande. Small things, true care, truth brings. I'll take one lift, you're right, best trip. Always, I know, you'll be at my show. Watching, waiting, commiserating. No. 182 con All the Small Things. Allora, non puoi dire Blink 182. O perché? Dici Occhiolino 182, quindi lo dici tutto in italiano. Non funziona o più dici... internet. Oppure dici Blink 182. Blink 182. Salute. All the Small Things. Canzone uscita nel 1999. Nel 99 c'era il Millennium Bug. C'era il Millennium Bug a momenti. A momenti, eh. Io mi ricordo di essere rimasto a casa tutto Capodanno con la calcolatrice in mano. Perché prima che ti salisse, no? Sì. Si portava addosso. Fai la prima mossa, bastarda. Fai la prima mossa. Più. E, purtroppo, o forse per fortuna, il Millennium Bug non è avvenuto. E niente, gli elettrodomestici non sono impazziti, non ci hanno ucciso, non è uscito Skynet, quindi siamo tutti a posto. Siamo ma qua. Magari il calendario dei Maya naturalmente, elettronici si sbaglia. Naturalmente noi questo podcast sarà a memoria per la resistenza umana, quando tra qualche anno succederà invece. Ricordatevi, noi abbiamo detto nel 99 è successo, è arrivato. Pensa se usano il nostro podcast da mandare nello spazio con me, richiesta d'aiuto agli alieni. A posto siamo, fottuti proprio. Comunque stanno dicendo, allora ragazzi, quegli hamburger buonissimi che ha fatto il buon Noah, che naturalmente siete tutti invitati la prossima volta a venire qui a casa mia. Secondo me, ma perché tutti a casa mia? Secondo me dobbiamo anche fare una ricetta culinaria su Netrun. Poi ci possiamo... Sì, utilizzando le carte potremmo pensare ad un ingrediente. Ah, che figata, bravo, mi piace. Noi naturalmente la faremo per la prossima, perché adesso non siamo assolutamente preparati, come non lo siamo mai naturalmente, però che vogliamo farci. Continuiamo con la nostra... No, parliamo del fatto che non siamo mai preparati. Parliamo, tu carici, okay. Mi hai dato lo hook, capitano. O il la. Mi hai dato il la per dire che noi non siamo così preparati che quando registriamo utilizziamo i metodi molto, molto rudimentali. Artigianali, artigianali, anche inventivi, ecco. Sì, inventivi di casa. Allora, Luca Ricci ha preso una scatola di gioco da tavolo, Core Wars, che probabilmente è stato il gioco più giocato nel 2014. Il mio gioco preferito. Ci ha messo, sopra una scatola ritagliata di chili gel. Nel mio intimo c'è chili. Leggo solo la prima riga. Dall'esperienza di chili, lo specialista dell'igiene della patata. Cioè, ti ho detto ma tutto. Ma non ho detto la patata, ma siamo sicuri che il marketing l'ha fatta passare. No, c'è scritto figa, ma non posso dirlo nel podcast. Però ormai l'hai detto, quindi siamo a posto. E patato, ho detto figa. Patato! E ci ha sbattuto dentro il microfono. Che, allora ragazzi, che ci devo fare? Io ho trovato questo microfono, l'ho collegato, sta facendo una foto, la metterà come allegato grafico di... No, la metto perché anche l'altra volta l'avevo fatta. E nessuno ci credeva. Sbattuto, mi sono dimenticato di fare, adesso te la mando via SMS. SMS, magari... Posso mandare un MMS? Non ma l'ho guarda, mai secondo me no. Secondo me la puoi mandare via posta normale, ci metti un francobollo al tuo telefono e me lo mandi. Cazzo, non funziona sto robot, non capisco. Ma cagare. Il tuo iPhone. Allora, perché? Perché semplicemente è un microfono unidirezionale. Com'è che dicevi prima che era? Ipercardioide. Era invece no, questo è unidirezionale, quindi non avendo un'asta del microfono ho dovuto arrabattarmi. Come meglio si può. Adesso naturalmente, rispetto alla prima puntata, la qualità del sonoro è decisamente migliorata. Ma non la qualità della puntata effettivamente in sé. Infatti picchi di qua perché noi spariamo stronzate, vai, quindi. Ma chiamiamola Sellerona. La tipa alta di Passaparola, Bonolis, Laurenti. Perché noi non ci leghiamo le cose. No. Io ti vengo a prendere a casa, hai capito? A casa, hai capito? Com'è che faceva questa trasmissione, la sigla di questa trasmissione? Ullala, ullala, ullala. No, meglio ancora, passiamo alla prossima rubrica. In questo caso siamo a tornei intorno al mondo. Miglioriamo di giorno in giorno la qualità delle nostre sigle. Luca Ricci, 3, 2, 1. Ok, tornando al mondo, smettere dopo una sigla. Ce la farò? Non credo. Allora, per tornei intorno al mondo, naturalmente noi scegliamo un torneo di fama internazionale e lo commentiamo. Commentiamo le liste e... Siamo andati sul sito Steamhack.com e abbiamo scelto, del tutto casualmente, il torneo della città col nome più bello al mondo, che è Euregio. Euregio 2014. Cioè... Dopo diverse... Allora, prima pensavo fosse in Sud Tirolo. Mi ha detto, sti cazzi, in Sud Tirolo fanno 24 persone. Cioè... Non fanno 24 abitanti Sud Tirolo. Fanno 24 giocatori. Invece no, l'Euregio a quanto pare è un negozio o un evento. Entro Euregio. Ed esco Euregio. Ed esco Euregio. Come dicono in Germania. Germania, dann Haken. Haken che è in... Germania. Sì, a due passi da Essen. Non è a due passi, però se lo diri, è confine col Belgio. Che è a due passi da Essen. Lo diceva anche Hitler, giustamente. Beh, non fare della facile ironia. Non è facile ironia, si chiama tattica militare. Ma scusami, vedo che adesso... Guarda, ma c'è una pizza. Ah no, è la tavolozza. Non è una pizza, è una tavolozza. Allora, ha indicato la figura di Kate Alternative Art. Naturalmente non riesce neanche a capire quali sono le cose base di questo gioco. Una tavolozza. Vabbè. Pensavo che ci avesse la pizza in una mano e la rotella per la tagliarla nell'altro. Benissimo. Allora, cara Kate, portata da un certo tizio, non sappiamo chi è il vincitore. Si chiama qua, guarda. No, quello è chi lo conosce. Ah, Fox. Perché due F e una O. No, è uno zero. È uno zero. FF, 0X. Sì, 40X. 40X. Allora, ha portato una Shaper Kate e un Jinteki Replicating Perfection. Andiamo un po' a analizzare cosa... Vabbè, sono due mazzi abbastanza classici. Il Kate gioca 3 Diesel, 3 Dirty Laundry, un giochino di gambe. Ragazzi, questo non è legale però. Un Net Celebrity. Net Celebrity? Ma come facevano a giocare con The Space Between? Ce l'avevano già? Hai detto i tedeschi? Quando è fatto patto? Non c'è scritto. Agosto 19. Ma non è ancora uscito The Space Between. Io dichiaro questa seduta illegale. Che cos'è Net Celebrity? Andiamo subito a guardarlo perché non me lo ricordo. Comunque, è molto strano che una carta di The Space Between, che è il secondo data pack di questo del Lunar Cycle, sia stata utilizzata. Io a volte mi stupisco di quante cose so. Cioè, come faccio a sapere che è il Lunar Cycle questo qui? Non lo so. Effettivamente, però. Cioè, io veramente le leggo delle cose allora. Mi incredibile. Peccato non ti ricordi il nome delle carte, però. Non ricordo nemmeno il nome delle persone. Ma andiamo bene. Allora, Net Celebrity in questo caso è un evento. È un evento Shaper. È un evento Current. È un evento Current che dice questa carta non può essere. Incantamondo. Il famoso Incantamondo di Netrunner. È un credito ricorrente. Usa questo credito durante una run. Ma che figa! Cioè, per un click, un soldino. Praticamente, uno di influenza. È un cyber feeder che rimane giù. Praticamente, sì. Ne puoi avere solo uno, però. Effettivamente lui ne aveva uno. Eh beh, certo. Comunque è molto strana questa cosa, io andrò a chiedere all'organizzatore se si può squalificarlo dalla vittoria. Vabbè, poi gioca due quality time perché con i 3 diesel aveva paura di non pescare Net Celebrity giustamente, e non farsi tirare le orecchie. Uno scavangio. Sì, il mono scavenge. Treasure Gamble. Un test run, così, però non gliene fregava un cazzo lui, eh. La Kamatsu Mem Chip. Addirittura. Mono. Clone chip. Sì, ma adesso gliel'ha fatto la fidanzata prima di partire. Sì, veramente. Jessica, la prossima volta gli faglio meglio. 3 Seymour Fing. Andiamo a vedere il core del mazzo. Ma gioca 2 Atman. Cioè, ma 2 Atman, un Deus Ex, un Fae Fatale, un Inti e uno Sharpshooter. 2 Tata Sucker, 2 Parasiti e 2 Self Modifying Code. Questo qui è un vecchio archetipo che usa neanche 3 Data Sucker. Cioè, i Data Sucker e i Parasiti e va bene con gli Atman. Io non so come cazzo fa. Cioè, io spero che abbia perso tutte di qua e vinto con tutte col GTK, perché ragazzi... Oh, poi magari è il mazzo più forte del mondo. No, magari lui è bravissimo, però veramente ha messo delle carte ad minchia. Cioè, ci tu riesco... dall'alto del primo posto al torneo nazionale puoi parlare, io che sono un semplice fruitore di questo gioco. Sei un peasant. No, allora... Cos'hai a birra? Sì. Sì. Allora, il mono test run... Lui ha pescato. Sì, alla fine c'ha 3 Small Thing, quindi sì, ma ho capito, però andava a pescare. Cosa gioca? Gioca con gli Atman, gioca con gli Anta, Inti e sharpshooter. O è stato veramente ha preso per il culo tutti i giocatori giocando molto bene. Perché comunque non ha neanche indexing. Vado, c'è un mono legwork, neanche un indexing. Tre Lucky Find, due Maker's Eye. Ha bisogno di kilo questo. Ha bisogno di kilo, sì, perché Dirty Laundry, Lucky Find. Oltretutto, niente economia ricorrente, solo economia burst, molto poca, perché qua io vedo soltanto Sure Gamble, Lucky Find e Dirty Laundry. Adesso ragazzi, perché noi ne stiamo parlando così a muzzo, voi Luca Ricci poi vi metterà le liste del torneo, questo qui, così vi potete anche dare un'occhiata. Poi provate di questi mazzi su Octagon, a casa con gli amichetti, fate un po' voi. E poi fateci sapere, perché veramente non, questo mazzo qua, secondo me, non è niente di esplosivo. No, ma proprio neanche solido, secondo me. Ho avuto molto culo. Vabbè, proprio con la tavolozza con la pizza. Vediamo invece il Genteki Regulated Imperfection, che ha portato, allora, come agenda aveva una Fetal AI, tre Napt Contract, tre Nisei le Napt sono e due Future Perfect. Allora, anche se non ritengo, anche se non mi piacciono tantissimo i Nisei, comunque nell'ottica del mazzo va bene, perché aveva delle agende che lui metteva sempre giù con almeno uno o due Advanced Token, quindi usando questa tecnica era sicuro che non c'era agende che poteva mettere anche giù a zero. Lui sapeva che doveva fare così, e secondo me è un buon modo anche per fissarsi nella maniera del gioco. Sì, tu non approvi, però è così, cioè non... Poi Nisei comunque fanno due Jackson Howard, tre Mental Health Clinic e tre Sand Duke, come giustamente è l'economia di un Replicating Perfection. Poi upgrade Caprice Nisei e Ash, giusto per fermare e scolarsi da gente, perché no va bene. Ma allora l'Ash l'ho visto al torneo di VG. Oh, ma ancora ste carte qua di The Space Between, ma non si può, è illegale. Scusate. Beh, intanto vi dico, al torneo di Vigevano io giocavo un mazzo molto simile a questo, però non giocavo gli Ash. C'era un ragazzo che giocava con un mazzo simile a questo con dentro gli Ash. Secondo me il mio era un pelo più esplosivo, perché l'Ash sì, ti protegge, però ti rallenta alla fine. Ah, vabbè, ma se lo metti giù soltanto quando ti serve. Ma sì, ma io sono un kamikaze, non c'ho bisogno di stare. Hai capito? Dai, che fai? Vabbè, scusate, andiamo avanti con le operazioni. Celebrity, tre giraffine, celebrity gift, un fast track, prendersi a prendere l'agenda, ci può stare. Tre hedge fund, un interni e poi un enhanced login protocol, che è una current di The Space Between, che non è ancora uscita, cioè esce adesso in questo istante mentre noi parliamo, ma sarà già uscita quando uscirà, allora, questa puntata. È una carta HB, due soldini per giocarla e due di influenza. È un incantamondo di Netrunner, come lo chiamiamo, un current voglio. Allora, quando come costo addizionale per questa first... Ma la traduci, da che io sono una sega. Sì, come costo addizionale per fare la prima run che non è stata fatta tramite un'abilità di una carta, quindi tramite il click dell'azione base, click make a run, devi spendere un altro click. Quindi cosa fai? Se tu giochi un sifone, non viene... Questa carta non funziona, ma se tu fai click make a run... devi spendere un altro click per fare la run. È forte, molto forte. No, non ho capito. Rallenta perché lui per fare una run normalmente... Cioè, io faccio... È il mio turno, sono runner. Sì. Faccio primo click, tiranno in mano. Ok, devi spendere un altro click. Cioè, ma fino adesso con chi ho parlato, scusami? Chi è che era qua al mio fianco? Non ho capito proprio una mazza. E se invece faccio... Se fai sifone... No, parte. Allora, quindi primo click sifone, dici figata. Poi secondo click faccio una run. No, spendo un altro click. Ah, quindi proprio bel lavoro. La prima volta nel turno. C'è da dire che anche questa carta qui ha un occhietto nel suo disegno. Io che cioè tu come faccio gli a campare? Se mi sono giocato di occhietti ormai sto gioco, occhietti e cani. Non so chi che è. Stiamo grazie. Notando un certo pattern. Quindi gli artisti vanno solo occhietti e cani. Vabbè, sono gli piacciono, cosa dobbiamo fare? Ora è forse un messaggio subliminale? C'entrano le scie chimiche in tutto occhio questo? Occhio al cane. Occhio al cane, oh mio Dio. Ok. Questo mazzo continuiamo a vedere perché insomma non abbiamo finito. Poi porta come Ice Eli, Wall of Static, Wall of Thorn, Allora, Eli ti fa perdere altri due click. Effettivamente con questa carta qui, con l'Enchanted Login Protocol, con l'Incantamondo, a perdere altri click davanti a Deli, fondamentalmente spacca. Il Wall of Static per me è la carta pezzotta, non ci sta per niente bene. Beh, dipende se devi fare. Il Wall of Thorn, manco li cani. No, Wall of Thorn anch'io, qua non mi ispira proprio. Un Enigma. Vabbè. Un Enigma, Dottor Buff e una Yagura, come Code Gate. Yagura. A me Yagura piace tantissimo, l'ho visto utilizzare, permette quando è lasciato andare di poterti spostare le carte sopra il mazzo come vuoi tu. Yeah. E fare net damage, che comunque rompe il cazzo. Se no, però l'altro deve comunque spendere due crediti. Tu ne hai speso uno per rezzarlo. Secondo me è un ottimo ice, ecco. Visto che ultimamente non si gioca più Yogo, e quindi Code Gate di bassa forza devono essere pagati per poter passare. Secondo me è un'ottima carta. Lui comunque, per essere sicuro, ci mette anche due Tollbooth. E così, anche se gioca Yogo, poi deve fare i salti mortali per passare. Vedo una faccia di disgusto su... Boh, cioè... Non lo so. Non ti piace. Due Komainu, tre Puppini, una Susanna e tre Tsurugi. Tre Tsurugi proprio... Bah. Insomma, questo qui ha vinto, però vabbè, insomma, non siamo molto d'accordo, ma naturalmente altrimenti non l'avremmo scelto come mazzi per la rubrica no, tornei. Io penso che non ci vado manco in vacanza ad Euregio. Ma Euregio non è un po', cioè sì, è in Sud Tirolo, ma non è lì che ha fatto il torneo. Ok, quindi comunque se non siete d'accordo sulle nostre analisi di questi mazzi, ditecelo nei commenti, nelle email. Sì, lo scriveremo nella nostra... Mandateci un WhatsApp. Macchina da scrivere invisibile. 10 punti Grifondoro che indovina questa citazione. Andiamo avanti con questa è una figata. Fatto questa qui è chiedilo al Sisop, che è la cosa in cui io devo stare zitto perché non ne capisco un cavolo. Cazzo. Di regole, e quindi è la sua rubrichetta. Per la sua rubrichetta 16 metri di Panfilo in Santa Margherita. Si è fatto una sigla che manco scritto. Ma non l'hanno sentita nemmeno. Cioè, dai, fai play. Faccio play. Allora. Push the button. Questo è chiedilo al Sisop. Devi fare doppio click. Chiedilo al Sisop. Bellina, possiamo andare avanti. Se ti piace. Quindi ti piace anche troppo. No, mi piace. No. Allora, chiedilo al Sisop, in cui io, ma anche Noah può dare le sue sul... Io leggo le domande, dai. Ecco, ok. Praticamente ogni tanto su il gruppo Facebook di Android Netrunner Italia saltano fuori domande di regole. Queste domande, secondo me, alcune più interessanti le ho raccolte e le rimetto, faccio cassa di risonanza su alcune di queste regole che a volte vengono sbagliate o dimenticate, insomma, o mal interpretate. O ci sono dei dubbi. O se ci sono dei dubbi, insomma. Allora, andiamo un po' a vedere... Pizzamele di qua. Cosa... Bene. Ah, Dennis, proprio tu! Cuoco è tu, Dennis Raffo! Il caro il marzullo di Medium. Vieni, cos'è che hai chiesto? Sentiamo. Danda. Allora, no, domanda su Guard. Vai avanti. Domanda su Guard. Guard che cos'ha? Guard è un Ice Sentry, forza 2... che dice end the run e non può essere bypassato. Ok, il ghiaccio, l'ice che non può essere bypassato. Infatti. Cosa accade se da non rezzato il runner gioca una carta per bypassarlo? Lo si materializza o no? Allora, andiamo prima di tutto a guardare i vari casi di bypass che ci sono nel gioco. Il bypass più comune è Inside Job. Inside Job dice il primo ice incontrato viene bypassato. Bypassare significa interamente saltare la carta e tutte le sue subroutine che non partono. L'altro tipo di bypass a memoria è Femme Fatale. Femme Fatale deve scegliere quando viene installata un ice, sia che sia rezzato o meno, e quell'ice, pagando un euro di credito per la subroutine, viene bypassato. Allora, che succede? Quindi vediamo il caso con Inside Job. Inside Job, mettiamo che Guard non è stato rezzato, ok? È lì, è il primo ice di 2, per esempio. E tu giochi in 6 giorni e dici, minchia, andiamo a fare una run su quel server. Il corp, se vuole fare in modo di fermarti, deve razzarlo. Se tu non razzi l'ice, il bypass non si attiva, perché si attiva solo un ice incontrato. E un ice incontrato, per regole, è un ice razzato. Un ice approcciato è invece un ice che si è appena arrivato davanti, ma non è. Può essere sia razzato che non razzato. Quindi un ice, l'ice non è incontrato, e quindi l'effetto di bypass funziona ancora per il secondo ice, che sia che sia rezzato o meno, lì deciderà il corpo se è rezzato o meno. Quindi che succede? Per far partire l'abilità di guard, di non essere bypassato, devi rezzarlo in ogni caso. Quindi ricordate, rezzate sempre i vostri guard quando serve. E dite no alla droga. E dite no alla droga. Bene. Passiamo alla prossima domanda di Andy Turini. Ciao a tutti. Ciao Luca Ricci. Ciao. Ho una domanda, se no non saresti qui. Se uso Dirty Laundry per fare una run sugli archivi senza ice a protezione, devo accedere alle carte? Sì. Io non mi ricordo se ho già risposto a questa domanda o una l'hai cosa simile. L'hai risposta ai tornei parecchie volte, perché la stiamo usando molto Dirty Laundry lanciata nel cesso. Allora, prima di tutto due cose. Primo, Dirty Laundry, ricordatevi sempre che i 5 crediti vengono dati alla fine della run. Se ha avuto successo, alla fine della run. Prima dovete accedere alle carte, dopo ricevete i crediti. Quindi occhio a fare i vostri conti dicendo: ah, prendo i 5 crediti da RAM, magari per rompere la stanza. E poi mi ci pago la NAPT. Oh, no, è vero, no! Quindi ricordatevi che i 5 crediti li prendete sempre alla fine della RAM. Sì, quando andate negli archivi dovete accedere alle carte, perché una RAM che ha avuto successo significa che voi accedete a delle carte. Se gli archivi non hanno carte, la RAM ha comunque successo. Quindi vediamo i due casi. Non ci sono carte negli archivi, boh, andate lì, accedete a 0 carte, il server c'è perché esiste, e beh, la Dirty Laundry ha avuto successo. Ora vediamo che ci sono carte scoperte e coperte. Non sapete, avete paura di uno CQ, di uno shock, così. Probabilmente ci sono degli shock, perché questa domanda qui è perché secondo me ha trovato davanti quei gintechi famosi, esatto, dove devi correre prima in un server centrale. Molta gente si tuffa nel cesso perché di solito non c'è mai nulla, invece ultimamente ci stanno mettendo un po' di shock, okay, per strizzarti. Quindi, qual è la risposta? È molto semplice, sì, dovete accedere alle carte. Come funziona? Dovete, perché per una run, perché sia considerata di successo, cioè una run ha detto un sacco di soldi, una bella casa, esatto, che sia considerata di successo, devi accedere alle carte nel server. Ricordatevi tutte le carte, quindi che fate una run, tutte le carte di cui che potete accedere. Le regole sono queste: in un server remoto dovete accedere a tutte le carte nell'ordine che volete, una che alla volete volta voi, eh? Ricordatevi sempre una alla volta. Nell'HQ una carta normalmente, a meno che non avete delle aggiunte. Nell'R&D la prima carta del mazzo, a meno che non avete delle aggiunte. Negli archivi tutte le carte coperte e scoperte. Prima si scoprono tutte le carte, quindi potete vederle, ma poi le dovete accedere tutte. Naturalmente quelle che non hanno effetti non serve a nulla, quelle che hanno effetti. Ma scelgo io l'ordine a cui accedere? Assolutamente sì, scegli il runner. Quindi se c'è l'agenda che vi permette di vincere, potete prima prendere quella, vincere il gioco e fregarvi del resto, per esempio. Ok. Quindi Andy Turini, spero che abbiamo risposto alla tua domanda. Continuiamo con una domanda di Nicola Molan. Ma quelle altre sopra le abbiamo già fatte tutte? Sì, le abbiamo già fatte, sono segnate, vedi? Io sono una persona organizzata. Forza. Domanda ignorante, come te Luca Ricci, quindi ti lascio rispondere. Ma Project Beagle... Non è così che si il progetto, conosce. Il progetto del cane divertente. Con una Sansan rezzata e 4 advancement token sopra, fa 3 gen points? Allora, questo è una malinterpretazione delle regole, perché Project, vedo, no, che si sta facendo i conti come 1, 2, 3, 4 per 5. Te lo posso buttare. Allora, Project Beagle dice: per ogni advanced token oltre il terzo, per ogni 2 advanced token oltre il terzo, sta facendo delle cose orribili. No, scusate, sono distratto. Si sta slacciando la cintura, oddio. Oh, pericolo di entrato. Troppi hamburger. Fatica. 6 etti di carne in 2. Allora, sembra la festa della salsiccia questa. Stavo dicendo, per ogni 2 token, 2 advanced token oltre i 3 base, potete, vale di più, vale un punto agenda in più. Il fatto è questo: Sansan permette sì di scorarla prima, perché sento che necessari sono due. Ma la carta nel suo effetto è ben specifica che devono essere oltre i tre. E non c'è scritto oltre gli advanced token richiesti della carta. C'è scritto oltre i tre. Quindi la carta, diciamo che supera in precedenza tutte le varie regole. E quindi Sansan purtroppo non serve per scorare per più punti Project Beacon. Pensa a te che roba, eh? Incredibile. Allora, guarda, Nicola Molano, non era una domanda ignorante, era una gran ficcata di domanda. Ma adesso passiamo a questo Lorenzo Santoni. Ah, lo conosco Lorenzo Santoni, è simpaticissimo. Meno male, ti simpatico. Non so chi sia, però me lo voglio comprare. Cioè, tu ricordati che quando si presenterà dice, ah sì, ma io ti conosco. Ricordatelo, perché sono per figa di merda. Ma poi me lo fai vedere su Facebook che faccia, che se è grosso allora dico che è simpatico davvero e tagli la parte prima. Perfetto. Allora, scusate una questione che mi tormenta. Ma se gioco una zozza su un Data Raven... Una Femme Fatale su Data Raven... Bypasso anche l'abilità passiva pagando per rompergli la sua routine. È la stessa cosa di questo Turbo. Qui io vorrei che tu rispondessi a questa domanda. Allora, adesso mi metti in disagio. Però secondo me... Cosa ho detto prima sul bypass? Che tu bypassi tutto. Tutto il... bypassabile testo della carta. No, beh, ma è come il toolbooth fondamentalmente, esatto. Cioè Femme Fatale quando lo giochi sul toolbooth, sul Data Raven e via dicendo, praticamente tu vedi la carta, il testo della carta completamente vuoto. Sì, lo passi, non te ne frega, a meno che appunto non sia un guard che non può essere bypassato. Sì, quindi Lorenzo Santoni, sì. Figata, puoi passare di Data Raven, tranquillamente. Passi Data Raven, non ti tagga, no? Non ti scorcia e tu vivi felice e gli hai inculato tutte le agende. Le agende. E se lo meritava. Quindi basta tormenti, Lorenzo. Ricorda, vivi una vita allegra, felice e con Netrunner sempre nel cuore. Spensierata. Spensierata. Bene, abbiamo finito anche con Chiedilo al Sisop. E direi che siamo ormai addirittura d'arrivo, abbiamo sfondato l'ora proprio in questi istanti. Auguri, auguri. 10 secondi alla mezzanotte. Buon 2000, nel 2000, no, il millennium bug. La mia calcolatrice. Sì, siamo alla quella che tu hai segnato sulla scalettas come asterisco saluti. Saluti. Io volevo... è il momento più tragico per me perché non so mai come salutare, devo dire la verità. No, beh, io voglio salutare a tutti i giocatori che ho incontrato durante questi anni di Netrunner. Mi è molto piaciuto giocare con voi, con quasi tutti. Sì, perché ce ne sono un paio che ovviamente non stanno in culo. Ma è normale, ragazzi, non possiamo starci tutti simpatici, però sì, noi cerchiamo. Stiamo facendo un appunto appunto a quello che ho letto l'altro giorno sul gruppo Facebook di Netrunner. Simone Kiwi, giusto si chiama, sì. Ragazzo, scriveva: ma io ho trovato solamente giocatori simpatici, negli altri giochi non incontravo così tanti giocatori simpatici, ma c'era sempre Kiwi. Ci sono tanti giocatori simpatici, ma perché siamo pochi? Quindi le teste di cazzo non si avvicinano ancora. Quando sarà mainstream questo gioco e... Quando sarà mainstream naturalmente io non potrò più giocarci, vero? Sì, esatto. Tu carici che è hipster anche nell'anima. Anzi, lui odia essere chiamato hipster perché è troppo hipster. E niente, quindi... Sì, no, cioè, tutti i giocatori simpatici, tutti bravi ragazzi. Anche perché comunque vedo che... Ma no, ci vuole cuore per questo gioco. Simone, cioè bisogna... il problema è che questo gioco ci devi mettere la testa. Non puoi avere 12 anni ed essere col moccio al naso e giocare a Netrunner. È per questo che non ci sono i bambi mi, i bimbi mi. I bambi minchia sono fighissimi. Che sono dei cerbiatti. Sono dei cerbiatti. Sono dei cerbiatti. Oh, mi dai le tue carte. Bene, vogliamo ricordare che questa puntata non è stata fatta assumendo droghe pesanti. Nessun animale è stato ferito. Parla il nostro orgoglio. No, io sono grafico, cioè io adesso vado a casa col Photoshop e faccio il Bambi minchia. Era postato prima ancora di questa puntata. E, che dire... se questa puntata uscirà prima del nostro torneo di Vigiana Corporation, venite. Spero perché che non sì. Dovrebbe, cioè, vediamo, io spero magari. Che domani sia già online. Ma magari per chi? Insomma, bisogna... Ah, devo già sentire il lavoro domani. Sì. Puoi andare a lavorare più tardi, magari. Sì. Dai, ok. Che altro? Un ringrazio sempre a tutti. Un ringrazio. Un ringrazio. ripeto, senza droghe pesanti. Un ringraziamento a tutti i nostri grandi amministratori di Netrunner.it, ovvero Stefano e Federico, che sempre ci hanno un sacco di impegno per questo progetto. Ringraziamo Federico perché gli abbiamo rubato ancora lo spazio. ciao Dennis, caro Maurizio Marzullo della Maurizio Marzullo. Ciao, siamo sì, legati, no, in realtà, no, più che altro. No, continua con la tua serie perché è veramente molto interessante, molto bella. Vorremmo essere intervistati, in realtà, è questo che ci ha ferito il fatto che subito sei andato da Federico. Questa cosa proprio. Vabbè, Federico ha parlato 300 puntate, ci sta, però anche noi. Insomma, dai, poi anche tanti altri giocatori, Vabbè, per la prossima volta. E che dire, spero che vi abbiamo intrattenuti per questa oretta. Veniteci a trovare, noi cerchiamo di viaggiare il più possibile per venirvi a trovare anche a voi. Io sono andato 2 volte a Pescara per giocare a Netrunner. Manco una volta sei riuscito. Manco una volta sono riuscito. L'altro giorno ero in vacanza, dovevo andare a Lecce in vacanza. Ho fatto prima una costa per andare giù, un'altra costa per tornare su. A mezzogiorno sono andato a Lecce, a Pescara per giocare al... Dov'è che si trovano? Il Ghes Academy, lì subito sotto il ponte. E niente, era chiuso e sono andato a mangiare le pizzette a fianco. In quel posto buonissimo, ne ho prese 2 ai peperoni dolci, erano buone. Ci tornerò, spero che un giorno riuscirò a giocare con i ragazzi di Pescara. Questo è un report di un torneo, ricordatevelo, dite sempre cosa avete mangiato. Bene, questo è tutto. Grazie ancora per averci ascoltato. Speriamo di fare un'altra puntata. Chi lo sa, magari ci bannano. Ferma ban. Finalmente ci scacceranno fuori da queste frequenze radiofoniche, internetiane. Ma noi ci compriamo un altro spazio. Sì, allora con Blackjack e Squiro di Lusso. Anzi, senza Blackjack. Sì. E, già me le vedo le nostre squille di lusso. Basta, stiamo veramente sforando tutto. Un saluto da Luca Ricci e io. Ma dovevamo terminare qua, poi dire io. Tagliala. Non posso tagliare, non si può fermare finché non dici il tuo nome. No, Vassalli. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out. Luca Ricci, un tempo noi pogavamo su sta canzone. Eh sì. Quando giocavamo in Hot Seat a Civilization e gli altri erano fichi e uscivano. Oh, poi la mettiamo anche questa. Ok, non devo neanche... Ah no, taglio perché taglio, così mi è più comodo. Vabbè, tanto non quasi vedo il silenzio. Okay. Sa! Oh! Sì, così si vede. Scaletta? Sì, scaletta. Chiedimi qui Sgambit e mettiti già l'altra. Che è Mushinushi. Mushinushi. Mushinushi. Non cerca. Vai su Google. Mushinushi. Netrun c'è già. Aku. Perché qua l'altro? Vabbè, è uguale. Bello. Vabbè, secondo. Casi, non line, con bonus.